La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, puntuali come ogni sabato alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. È l'ultima puntata, fra virgolette, normale del nostro 2017. È una puntata dedicata alle uscite di questa settimana. Sono state comunque tante, perché quattro uscite che hanno, diciamo così, cominciato la loro corsa dal Natale o dopo il Natale non sono poche, sono anche di un certo spessore per quanto riguarda il potenziale con il pubblico, e vedremo, si sono cominciate già a muovere piuttosto bene nel botteghino. Dico ultima puntata normale perché ne avremo una speciale domani e dopodomani, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio, per raccontarvi invece tutto il cinema che vi aspetta nel 2018 con Piera De Tassis, direttore di Chuck. Quindi insomma non vi lasciamo sicuramente soli o privi di consigli cinematografici in questo lungo ponte di Capodanno. Cominciamo allora a entrare subito nel vivo della nostra trasmissione. Dicevamo quattro nuovi film in sala. Quello che è uscito prima di questo quartetto è un musical griffato da Michael Gracie con un cast di attori importante capitanato da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Si intitola The Greatest Showman. What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. È la storia di un uomo e del suo grande sogno, un sogno decisamente americano, quello di P.T. Barnum. Avrete sicuramente associato il suo nome a quello del circo in generale, interpretato appunto da Hugh Jackman, in una New York che stava esplodendo proprio in tutto la sua forza, la sua adrenalina. Quest'uomo si mise in mente di mettere insieme gli ultimi, di mettere insieme quelli che nessuno voleva, quelli che addirittura facevano girare le persone per strada quando li incontravano. Forse qualcuno li avrebbe chiamati da lì a poco fenomeni da baraccone. In realtà erano persone con una grande forza interiore e con tanto da dare, ma alle quali non veniva mai concessa un'opportunità. Li mise insieme uno per uno, secondo della loro altezza, della loro larghezza, della loro taglia, del loro peso, delle loro capacità strane, delle stranezze proprio che la natura gli aveva dato. Li mise insieme e creò il più grande circo del mondo. Anche in società con un giovane uomo d'affari, Philip, interpretato da Zac Efron, i due misero insieme un meccanismo davvero incredibile che pian pianino convinse il pubblico di New York che era uno spettacolo al quale non si poteva rinunciare, appunto il più grande spettacolo del mondo. Non è la vita che ti avevo promesso. Ti avevo promesso una vita di magia e di meraviglie. Guarda quelle due bambine. Ho tutto quello che voglio proprio qui. Se poteste avverare un sogno, cosa vorreste? Un leone, un elefante. O un gigante, alto 3 metri. Ragazze, credo di avere un'idea. La vita a volte, come dire, poi è abbastanza crudele. In questo caso tutto questo trasporto di P.T. Barnum nei confronti delle sue bambine, della sua devota moglie, si perde, sbanda per strada quando incontra un artista come Jenny Lind, Rebecca Ferguson, l'usignolo svedese. E così fa anche Philip, Zac Efron, che si innamora perdutamente della trapezzista di questo circo. Però insomma la forza interiore di questi uomini e di questa impresa incredibile avrà la meglio. A dirigere il tutto, dicevamo, c'è Michael Gracie. Le musiche sono composte da due nomi che magari non vi dicono moltissimo, con quelli di Benny Pasek e Justin Paul, ma sono due autori da Oscar perché sono stati fra i compositori che hanno scritto le canzoni di La La Land. Tra l'altro segnatamente hanno scritto City of Stars, che è forse la più bella, la più rinomata delle canzoni, e quindi, come dire, un marchio di qualità importante. Io voglio chiamare qui con noi per questa ultima puntata, dicevamo normale, del 2017, Boris Sollazzo, che è in collegamento. Ciao Boris. Buonasera Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Di la verità che il casting per farti da seconda voce l'hai fatto come Barnum, cercando quello più strano. Ah beh, assolutamente, ho trovato l'orso, quindi più di così. Boris Sollazzo, che so essere in località amene, straordinarie, in mezzo alle nevi dell'Austria, quindi un ragazzo raffinato, insomma, che si è perso lì, hai trovato circhi da quelle parti, no? No, anche se insomma di gente strana ce n'è, non come nel film di Michael Gracie, che è The Greatest Showman, che a me ha divertito molto. Devo dire, bisogna subito dire che è uno spettacolo antico come il circo, in tutti i sensi, cioè devi essere un fan, un ammiratore del genere musical più duro e più puro, non tanto diciamo il rinascimento alla La La Land, ma più una visione di 30-40 anni fa con la stessa canzone ripetuta due o tre volte in modo che ti entri dentro la testa, con il protagonista che anche per dire passami il sale lo dirà cantando e ballando. Ed è ovviamente una modalità che trova un pubblico magari non preparatissimo, anche se poi chiaramente il musical ha un continue parabole discendenti e ascendenti, ma non muore mai. Però è questo è il quello che ci ritroviamo di fronte quando vediamo The Greatest Showman. E c'è un motivo secondo me filologico e cinematografico. La storia di Barnum è una storia che poteva essere raccontata solo in quella maniera, poteva essere raccontata solo con quella grammatica un po' grossier, un po' estrema, con quelle canzoni che hanno dei significati precisi, che raccontano un certo tipo di morale. Allo stesso tempo però quello che è bello di The Greatest Showman è che ha tante piccole sfumature molto interessanti, soprattutto nelle parti recitate. Per esempio Hugh Jackman, che veniva da film in cui non se la cavava egregiamente, se escludiamo diciamo il suo personaggio principale degli ultimi anni, che è Wolverine, in cui diciamo si era seduto sulla sua bellezza e sul suo carisma, e qui invece riesce a raccontare forse il vero freak di tutta la compagnia, perché sono molto risolti la donna barbuta, il gigante, la trapezista, i fratelli siamesi, non hanno problemi di accettazione. Nel momento in cui Barnum gli dà una visione della vita e gli dà un obiettivo, loro riescono ad affrontarla con coraggio. Il vero freak è lui, perché si sente mutilato, perché è il figlio del sarto, perché non gli basta mai, glielo dice proprio Rebecca Ferguson, non basterà mai a chi ha radici umili tutta l'approvazione del mondo, si soffrirà comunque sempre tanto. Ecco, in quel rapporto Ferguson-Jackman, quindi usignolo svedese Barnum, e anche nel rapporto che poi c'è con il più risolto inevitabilmente Efron, che invece è uno che discende agli inferi di sua spontanea volontà, c'è tutta la bellezza semplice di questa favola, di questo racconto, e questo vale anche per Michelle Williams, che continua ad essere secondo me una delle più grandi attrici sottovalutate di Hollywood, e che anche qui con un ruolo molto stereotipato riesce però invece a dare spessore. Quindi se si sopporta il genere musical in maniera ivi, sostanzialmente in maniera dura e pura, questo è un film che a Natale e a Capodanno ti godi tanto. E allora noi torneremo fra un attimo ancora su The Greatest Showman, perché voglio fare un po' un ragionamento sul potenziale canoro di un certo cinema mainstream americano, che qui è espresso forse al suo massimo. Prima però sentiamo i consigli per chi viaggia, fra poco. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. L'appuntamento con la prova del suono è il sabato e la domenica a partire dalle 19:15, in collegamento con il Groove Master Studio per un pieno di grande musica, la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. La Rosa Purpurea. Rideranno di noi. Ridono già di noi, tanto vale farsi pagare. Non dategli ascolto. Non capiscono per ora, ma capiranno. Collezioniamo proteste ogni giorno. Sì, giusto! Mostri! Rischi tutto quello che hai costruito. E come l'ho costruito? Non serve che tutto il mondo ti ami. Bastano poche persone buone. Allora, avete sentito una clip di The Greatest Showman. Dicevamo, volevamo chiudere un po' il ragionamento su questo film, che è partito comunque abbastanza bene al botteghino italiano, anche se Barnum poi magari non è proprio un personaggio così forte nell'immaginario del nostro paese. Boris Sollazzo, dicevo, un cast che forse rappresenta sul fronte maschile il meglio di quello che è l'intreccio fra attori cinematografici e possibilità di fare del musical. Penso appunto a uno Hugh Jackman che già con I Miserabili aveva dato dimostrazione anche delle sue capacità canore, tra l'altro frequentemente anche confermate sui palcoscenici di Broadway. Dall'altra parte Zac Efron, ricordiamo, emerso con High School Musical e poi con Hairspray. Ecco, c'è però una scuola che si sta un po' muovendo, cioè il musical, La La Land in questo ha fatto un po' breccia, il musical può tornare ad essere un po', anche grazie a questi artefici, un genere frequentato dal cinema americano? Beh, il pregio di La La Land è stato riportare in auge non solo il musical, ma il musical in cui la musica fa da padrone. Si era arrivati dopo Chicago, diciamo, a quel musical che dava quei due o tre pezzi, ma che era di fatto un film recitato con un'anima magari più pronunciatamente musicale nella colonna sonora. Si è ritornati invece adesso con La La Land al musical in cui si parla cantando, in cui i momenti più importanti vengono interpretati da musica e canzoni, e ci avevano provato anche con I Miserabili, proprio come ricordavi tu, ed era stato un esperimento abbastanza fallimentare, perché era un esperimento estremamente antiquato. Credo che la forza di The Greatest Showman sia la stessa di La La Land, cioè prendere un genere molto classico, affrontarlo anche con grande insomma rigore e antichi schemi, e allo stesso tempo però trovare nella musica una marcia in più, cioè trovare una punta di modernità, e anche nel racconto raccontare qualcosa di antico e allo stesso tempo moderno. Il La La Land era appunto la ricerca del successo da parte di due artisti, e qui in fondo è la stessa cosa, perché Barnum, che impiegato poi diventa invece l'inventore e il padrone dell'immaginario del circo. Credo che insomma in questo tipo di storie funzioni ancora, e ce l'abbia proprio reinsegnato La La Land. Anche me si è ricordato molto, devo dire, anche Moulin Rouge per certe atmosfere, appunto per questa ambientazione circense. The Greatest Showman, il primo film del quale ci siamo occupati in questa puntata della Rosa Purpura. Adesso passiamo al cinema italiano e cerchiamo di non stare come un gatto in tangenziale. È sulle periferie metropolitane che oggi si gioca il futuro dell'Europa. È arrivato il momento di andare oltre le parole, a cominciare da noi, a cominciare da me. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Basta oggi. Dove, scusa? Qui non posso irrecuperabile. A confronto scambi un centro benessere. Io ho conosciuto anche la mamma. Lasciamo perdere sti ragazzini. Tanto sta storia dura come un gatto in tangenziale. E avevamo detto appunto, cerchiamo di non finire così come questo gatto in tangenziale di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ormai coppia super consolidata del nostro cinema, della nostra commedia. Riccardo Milani è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito qui, siamo quasi al cotechino ormai. Grazie a voi. Allora, innanzitutto Riccardo, devo dire che nella clip è spiegato, però il titolo io lo trovo eccezionale, perché insomma è quanto di più, come dire, ti fa sentire tutto il rischio che hai addosso. Allora ti chiedo, in questo senso, il gatto in tangenziale tra i tuoi protagonisti è più Paola Cortellesi o Antonio Albanese? No, ma tutte e due, insomma anche i loro figli, cioè le storie impossibili che hanno un futuro molto molto incerto tra due mondi così distanti, insomma hanno quell'incertezza e quella fragilità lì, insomma. Però diciamo, se i ragazzi la prendono come una cosa della vita, insomma, no? Le storie vanno e vengono così, loro ne hanno una consapevolezza in più, insomma, gli adulti. Ecco, ricordiamola la storia: Giovanni Albanese, personaggio che lavora per quello che viene definito un think tank, quindi un cartello di pensatori che devono letteralmente un serbatoio di pensieri. Assolutamente, che devono riqualificare queste nostre periferie un po' degradate, e si trova di fronte alla possibilità, insomma, alla realtà di una figlia che si è innamorata di un ragazzino di un quartiere super degradato che ha per madre appunto come come una ragazza come Paola Cortellesi, che è l'opposto, proprio come anche capacità e fisicità nell'intervenire nel ragionamento intellettuale del nostro. E chiaramente potremmo definirlo quasi, Riccardo, una sorta di benvenuto in periferia, no? In questo senso, perché i due mondi si incontrano e si scontrano, ma insomma forse impareranno anche un po' a capirsi. Però la cosa che mi ha un po' così fatto pensare di questo tuo film, che è un film che affronta temi seri, forse il tema dei temi, cioè la non comunicazione fra classi sociali che si sono sempre più consolidate nel nostro paese e quindi fra periferia e centro, intesi anche come concetti astratti oltre che come luoghi fisici. Sì. Dicevo, quello che mi ha molto fatto pensare è che mi sembra un'Italia degli ultimi comunque, cioè da una parte abbiamo un sottoproletariato, un proletariato, chiamalo come vuoi, con i termini del giorno d'oggi, che sogna della parte borghese, della parte bene, tutta quella quel futile, tutta quella superficialità che non è poi il cuore di quella che è stata una borghesia illuminata, e dall'altra parte è una borghesia che non è proprio più per niente illuminata. Quindi mi sembra che sia una guerra fra poveri anche in questo senso. Ma questo può essere, insomma, diciamo che l'obiettivo era quello di a suscitare con il film, alla fine del film, in tutti, devo dire, cioè nel senso, con la speranza che poi il film, come pare, però lo stiano vedendo anche le classi sociali molto diverse, ed è in cinema anche molto diversi come pubblico abituale, in tutte e due i mondi suscitare l'idea e stimolarla in qualche modo che forse un briciolo di, senza volere, come dire, prospettare soluzioni eccetera, ma un briciolo di possibilità può essere nel fatto che uno stia almeno ad ascoltare le ragioni degli altri per capirle, ecco, o per parlarne, conoscendole in maniera molto rozza e molto semplicistica forse. Il film dice che, o perlomeno racconta, che un conto è parlare di cose, impegnarsi, no? e farne anche un po' il proprio asse culturale, e un conto è conoscerle. Il personaggio di Monica conosce le cose di cui parla perché le vive, ecco. Non conosce però il mondo di Giovanni, cioè non conosce anche le possibilità concrete che quel mondo lì, che la politica così odiata, così tenuta, no, a distanza, non è sempre responsabile di tutto quello che succede, tutto quello che ci succede, ma può essere anche, come nel caso appunto dei finanziamenti, dei fondi europei, una possibilità concreta. Insomma, ecco, tutte e due assorbono qualcosa dall'altro, e Giovanni capisce che un conto è parlare di contaminazione, un conto è viverla. E poi ero brava come cassiera io. Poi ci hanno licenziato per mettere ste casse automatiche. Indovinavo che persona era da quello che si comprava. Fate conto, insalata in busta, la carta igienica con i disegnini, single. Oppure spinacine e merendine al cocco, depresso. Poi con ste casse nuove, dice che la gente fa prima e risparmia tipo... 2 minuti, non di più. 2 minuti, che ci dovranno fare questi 2 minuti? Ecco, c'è tanta amarezza in questo dialogo, che ho trovato molto, molto bello, anche emozionante in un certo senso. Gli occhi di questa donna che vedono e capiscono le persone da quello che comprano al supermercato. Riccardo, ti faccio un'ultima domanda. Funziona moltissimo, ancora una volta, perché con te sono stati già protagonisti di film precedenti, l'asse appunto albanese Cortellesi. Cosa si danno l'un l'altro? Dov'è che vanno a intervenire, diventando coppia, diventando una sorta di nome scritto tutto insieme, Albanesi Cortellesi? Ma sai, lì la chimia è sulla misura delle cose. Loro hanno una grande passione, grandissima passione per questo lavoro, e hanno anche avuto un percorso molto simile negli anni. Insomma, hanno fatto cose sovrapponibili per certi aspetti, no? Anche se a distanza di qualche anno uno dall'altro. Però questa precisione maniacale nelle cose, questo voler andare a fondo ai personaggi è comune a tutte e due, e anche conoscerli. Noi nello scrivere con Paolo siamo andati a Battoggi molto prima, ci ero andato molti anni prima, e Antonio ha voluto conoscere le persone, conoscere i luoghi, eccetera. E c'è questa, diciamo, il desiderio comune di fare un percorso insieme. E questa cosa qui, quando si partecipa a un progetto, insomma, diventa fondamentale. Riccardo, grazie per essere stato con noi qui alla Rosa Purpurea. Ricordo Come un gatto tangenziale, distribuzione Bella Massiccia, quindi insomma lo trovate nei cinema italiani. In bocca al lupo e buon 2018. Viva il lupo e auguri a voi, buon 2018 anche a voi. E allora, Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale, e noi prima di dare la linea alla regia però dobbiamo ritornare a una grande tradizione della Rosa Purpurea, cioè il nostro DVD game. Sentiamo la prima traccia del film misterioso di oggi. È la mia macchina. Точно вот. Sì, è la mia macchina. Це ти? А як ти збираєшся? E allora, avete sentito una lingua un po' un decorte, no? Di un paese dell'est. Qualcuno che in italiano dice "la mia macchina", è stato, vi voglio già aiutare da principio, è stato un film di cui si è parlato molto nella prima parte di questa nuova stagione, diciamo dal mese di agosto in poi, per motivi anche festivalieri. Un film di cui si è parlato molto e che ha avuto un grande successo, soprattutto di penetrazione sulla gente che l'ha visto. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo del film, il vostro nome, cognome e indirizzo, perché ci sono due DVD di questo film che vi aspettano e che sveleremo prima della fine della trasmissione. A questo punto, linea alla regia, fra poco torniamo, sarà con noi Alessandro Borghi per parlare di Napoli Velata di Ferzan Özpetek, ma parleremo anche di Coco, il film ad animazione Disney che è partito fortissimo al botteghino, fra poco. La Rosa Purpurea. È il Dia de los Muertos, nessuno va da nessuna parte. Stasera si rimane in famiglia. Tu lascia che siano i tuoi antenati a guidarti. Vorrei che mi aiutassero a realizzare il mio sogno. Miguel! Mamma Imelda, ti trovo bene. Cosa sta succedendo? Allora non è un sogno, questo posto è reale. Bentornati, qualcosa da dichiarare? Effettivamente, sì. Guardate, quel bambino vivente. La tua mano. Mi trasforma in uno scheletro. Devi tornare indietro prima dell'alba, ti aiuto io. Quante suggestioni in questo Coco, il film Disney di questo Natale, che ci porta in un Messico nel quale per una famiglia è stata di fatto bandita la musica. È la storia di un ragazzino, Miguel, 12 anni, che ha un grande talento musicale, vorrebbe esercitarlo, almeno in quel concertino in piazza del Dia de los Muertos, che è una delle feste più incredibili del Messico, ma non può perché in quella famiglia qualche anno prima musica aveva voluto dire abbandono, aveva voluto dire qualcuno che partiva e lasciava in asso la famiglia per non tornare mai più. E allora la musica è stata bandita, deve farlo un po' di nascosto, ma la magia di un film Disney chiaramente è lì che t'aspetta, e quindi toccherà scendere in questi inferi coloratissimi del mondo dei morti per cercare la verità da qualche parte e anche la possibilità di realizzare i propri sogni. Boris, ritroviamo Boris Sollazzo, una Disney che ogni volta ci stupisce con questi film. È stato anche il caso di Coco, che tra l'altro, soprattutto secondo me, nella creazione di un immaginario ha veramente il suo punto di forza. Questo al di là così colorato, così in contrapposizione con l'idea dell'aldilà, così misto a livello scenico fra l'iconografia di Blade Runner e quella di alcuni disegni di Piranesi, non so come dire, c'è dentro un mondo che ha un forte immaginario legato e costruito per poi riuscire a rendere plausibile e anche, come dire, far sorridere in un film che alla fine sfiora, e anzi più che sfiora, affronta un tema come quello dell'aldilà. Sì, è un film straordinario per tanti versi, cercheremo di farlo capire in tutti i modi, insomma, sia per quanto riguarda l'aspetto, come hai detto tu, più psicologico, sia per quanto riguarda l'aspetto artistico, creativo, anche in questo caso musicale e di animazione. E qui Ulrich e Molina fanno secondo me un lavoro eccezionale, proprio perché si sforzano di non lasciare nulla al caso. All'inizio sembra un tentativo Disney-Pixar banale di fare una sorta di commedia melodrammatica etnica, cioè la Pixar e la Disney cercano di occupare un mercato, anche legittimamente. Solo dopo invece si capisce che si sta facendo ben altro, che si sta dando colore alla morte, che si sta proseguendo quel percorso virtuoso e straordinario che secondo me è iniziato, come potremmo definirla, una seconda età d'oro della Pixar, che è appunto quella iniziata con Inside Out, cioè andare nella testa dei bambini e cercare ciò che sta per diventare adulto. E come si diventa adulti? Uccidendo l'amico immaginario, come succede in Inside Out, oppure affrontando la morte con coraggio, a testa alta, come fa un bambino costretto ad andare nell'aldilà per una notte intera ad affrontare i propri demoni. E i demoni non sono i morti aiutano, i morti sono belli, sono anche esteticamente belli in questo film. I demoni sono la propria famiglia, cioè il riuscire ad uccidere, tra virgolette, in questo caso i propri bisnonni per potersi affermare, cioè trovare la propria identità. E questo in un periodo in cui con Star Wars e tante altre cose si continua a contestare il ruolo della Disney come colonizzatrice di immaginari, noi invece troviamo qui un brillante esempio di sintesi tra due immaginari diversi, quello della Pixar e della Disney. Ne esce fuori un lavoro straordinario a livello di animazioni, in alcuni momenti sembra quasi live action, c'è un uso dei colori e dei suoni straordinari, dall'altra parte c'è un racconto creativo e di scrittura di altissimo livello e infine, come dicevi tu, porti dei bambini e degli adulti ad affrontare il tema più difficile, quello della morte, con il massimo della serenità e il massimo del sorriso. Quindi secondo me siamo di fronte a uno dei capolavori di questi due studi insieme. Dante? Dante! Dante, aspettami! Devi starmi vicino, bello. Non sappiamo dove... Allora non è un sogno. Questo posto è reale. Credevi non lo fosse? Beh, non lo so. Credevo fosse la solita storiella che raccontano ai bambini, come le vitamine. Miguel, le vitamine esistono davvero? Comincio a crederci veramente. Coco, il film Disney di Natale, questo partito invece fortissimo al botteghino e quindi, come dire, probabilmente potrà essere uno dei campioni del box office. Ne parleremo fra poco di un altro film che è partito fortissimo al botteghino, che è il film Napoli Velata di Ferzan Ospete, che sarà con noi fra pochissimo Alessandro Borghi. Prima però dobbiamo giocare con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. 1200 euro. Oh. Prigione. E allora dal Festival di Locarno alla prima parte della stagione cinematografica nelle nostre sale con un ottimo risultato. Di che film si tratta? Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due DVD che vi aspettano e che più tardi vi faremo, vi renderemo noti, almeno per quanto riguarda il titolo. I vincitori li annunceremo la prossima settimana. Napoli Velata, dicevamo, Ferzan Ospetek che torna nei cinema italiani con questo film tutto ambientato nella magica, anche in questo caso, atmosfera della città partenopea. Ha qualcosa da fare domani? Perché? Perché io e lei passeremo una notte insieme. Chi te l'ha dato questo? Era di mio padre. È un occhio portafortuna. Serve più a te che a me. Se mi lasci faccio una pazzia, lo sai, vero? Napoli, 26 giugno 2017, ore 10:23. Cadavere di sesso maschile, non identificato. Età apparente compresa tra i 30 e i 35 anni. Conoscevo la vittima. Alessandro Borghi in collegamento con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Grazie anche a te per essere qui con noi in questa ultima weekend dell'anno cinematografico, per raccontarci un po' qualcosa di più di questo Napoli Velata. Dicevo prima, un film che è partito molto forte al botteghino, devo dire anche o forse oltre le previsioni, visto l'intasamento chiaramente di questi giorni natalizi. Sta andando molto molto bene Napoli Velata, il che ci dice che Ferzan Ospetek ha sempre un pubblico, come dire, che lo aspetta in sala, e che ci dice anche che è un film che intriga perché avete sentito le atmosfere. Tu sei molto diretto all'inizio del film, no? Dici: lei passerà la notte con me. Non so quanti di noi avranno avuto mai il coraggio di dire una cosa del genere in vita loro, però ti invidiamo un pochino. Ho detto anche perché dall'altra parte c'era Giovanna mezzogiorno. Però detto questo, Alessandro, è un film che poi prende delle tinte che sono veramente noir e addirittura direi thriller, no? Beh sì, allora diciamo sì, innanzitutto siamo tutti molto contenti perché la concorrenza in questo periodo è abbastanza interessante, quindi fare un buon risultato al cinema in questo momento è molto importante, è sempre molto soddisfacente. Poi quello che posso dirti è che dal mio punto di vista io sono particolarmente felice perché il fatto che la Polivelata stia andando bene è un chiaro segno che il pubblico ha voglia di vedere anche un'altra tipologia di film, no? Che è insomma è posizionato esattamente nella tipologia thriller e noir, come hai detto tu. Invece noi siamo molto abituati a vedere, no, nelle feste di Natale più che altro delle commedie. Il fatto che così tante persone abbiano voglia di andare a vedere un film che è palesemente un film che ha bisogno di attenzione, che è molto diverso da quello che siamo abituati a vedere ultimamente, mi sembra un grandissimo segno per il cinema italiano, quindi sono molto felice io, molto. Alessandro, il tuo personaggio, dicevamo, è un personaggio che, appunto, abbiamo sentito anche da queste poche parole della clip, è un personaggio che afferra la vita con una certa forza, con una certa decisione, ma poi a un certo punto, come dire, scompare proprio fisicamente. Cioè, come ti è sembrato quando l'hai letto in scrittura, in lavoro di costruzione del personaggio? Come ti è sembrato e cosa ti è piaciuto di questo personaggio? Ma guarda, la cosa che mi ha da subito molto colpito è stata questa possibilità che mi è stata data da Ferzan di affrontare un personaggio che fosse molto diverso da quelli che avevo fatto fino a quel momento, insomma andava proprio in un'altra direzione e era quello di cui avevo bisogno in questo momento. E poi mi affascinava molto l'idea di fare un thriller, di fare un film mystery, che era una cosa che in Italia non si faceva insomma da un po' di tempo, e mi sembrava una grandissima, inestimabile occasione farlo con Ferzan Ospet, perché insomma il personaggio era un personaggio molto complesso. Poi per chi ha già visto il film, per chi lo vedrà, insomma capiranno il perché. Infatti qui ho sempre le parole contate perché lo spoiler è dietro l'angolo. È molto complesso e è un personaggio che per questo aveva bisogno di essere calibrato nel corso delle riprese, e questo è esattamente quello che abbiamo fatto io e Ferdinand. Ci siamo scambiati delle opinioni, abbiamo cercato insieme di trovare la strada giusta per raccontare il personaggio e abbiamo continuamente cambiato idea durante il film. Questo mi sembra una cosa, come dire, da persone intelligenti, ecco, rapportarsi gli uni con gli altri per cercare di ottenere il massimo risultato. E sono, insomma, sono molto contento io di come è venuto il film e di come abbiamo raccontato il personaggio. Peraltro Ferzan, dicevi giustamente tu, ha fatto questo film Mystery che segue Rosso Istanbul, dove anche lì c'era una scomparsa, sta facendo un po' un lavoro sul tema della scomparsa improvvisa, no? di qualcuno e di come gli altri reagiscono, che è un po', sta diventando un po' il centro del suo cinema. E per un Mystery, come l'hai chiamato tu, Alessandro, serviva Napoli, cioè per un Mystery Napoli è lo sfondo ideale. Cos'è stata un po' questa esperienza? So che sei stato un mese e mezzo a Napoli per girare, ecco, sì. Il rapporto con la città, con questi luoghi poco conosciuti della città peraltro. Ma guarda, in realtà è da una parte una grandissima fortuna, perché girare in alcuni posti che di solito non sono addirittura neanche aperti al pubblico, quella è un'occasione enorme, no? Il fatto di poter vedere il Cristo velato quante volte vuoi, di poter entrare negli Uffizi, capito, in posti che sono assolutamente molto difficili da raggiungere, poterli vedere, soprattutto poterli vedere con delle persone che hanno la possibilità e la capacità di raccontarti la vera storia di tutti quanti i luoghi che tu vai a conoscere, quello è una fortuna enorme. Dall'altra parte, stando lì un mese e mezzo però a lavorare, ovviamente il tempo che hai per goderti la città è sempre molto limitato, in particolare nel mio caso noi siamo stati lì a giugno, quindi ci siamo goduti molto sole, un tempo bellissimo e il mare di Napoli, però la città almeno io sono riuscita a godermela poco, perché poi ero tutti i giorni sul set dalla mattina alla sera, quando c'eravamo di notte il giorno eravamo, come dire, poco vigili, e quindi io ho respirato sicuramente il 10% dell'energia vera della città, perché per scoprire una città come Napoli sicuramente ci vuole molto molto più tempo, però è stato un mese e mezzo davvero davvero bello. Poi io Napoli è una città che non conoscevo, quindi è stata una scoperta per me. Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro, il rapporto sul set, si è parlato molto ovviamente della scena di sesso, molto lunga, molto appassionata, non lo dico per voyeurismo radiofonico, tanto non si vede niente, ma lo dico perché sicuramente ci vuole in quelle situazioni una certa chimica, ecco, com'è stato lavorare, anche lavorare a questo aspetto di un copione che prevedeva una scena di questo tipo? Beh sì, già dalla sceneggiatura diciamo che Ferdan aveva molto molto chiaro in testa dove volesse arrivare con quella scena, perché era una scena che sin dall'inizio era davvero davvero molto importante ai fini della sceneggiatura, ai fini della struttura narrativa e thriller del film, perché ovviamente se quella notte passata insieme non ha quella potenza, non si giustifica tutto quello che accade dopo. Quindi è stato fondamentale trovare un feeling con Giovanna, che in realtà è venuto in una maniera assolutamente spontanea, quasi senza neanche doverlo cercare, perché poi quelle sono scene molto molto molto delicate, che possono diventare complicatissime o facilissime in un secondo. Noi per fortuna ci siamo da subito trovati molto a nostro agio, abbiamo capito che avevamo bisogno di essere uniti nel fare questa cosa e per dare davvero un senso al film e a quella scena, e quindi quando è iniziata poi ci siamo trovati così molto liberi nel farla, e diretti da Ferdinand ci ha aiutato molto. Quindi a un certo punto ci siamo guardati indietro, ci siamo resi conto che questa cosa ce l'eravamo levata e potevamo andare a raccontare il resto del film, però è stata un'esperienza molto bella, molto forte. Alessandro, un'ultima cosa ti chiedo, i progetti per il 2018, dopo questo film, dopo Napoli Velata, cosa ti aspetta e dove ti vedremo? Ma allora, diciamo che quello che andrò a fare ancora non lo so, l'unica cosa che so è che nel 2018 usciranno due film quali io tengo in maniera davvero particolare, che sono Il Primo Re di Matteo Roveri, un film sulla leggenda della Fondazione di Roma, e un film di Alessio Cremonini che si chiama Sulla mia pelle, che è il film ispirato alla storia di Stefano Cucchi. Sono due film che già abbiamo girato, usciranno nel 2018, ancora non sappiamo quando, vedremo e capiremo, però sono davvero molto felice, perché adesso guardandomi indietro, insomma, un 2017 è stato davvero importante per me, dove ho avuto la possibilità di fare davvero molte cose belle, soddisfacenti, e di incontrare molte persone davvero importanti per la mia vita e per la mia carriera. Alessandro, grazie mille, e anche a te un augurio di buon 2018. Grazie a voi e tanti auguri. Alessandro Borghi, Napoli Velata, Ferzan Özpetek nei cinema italiani. Adesso viabilità, fra poco torniamo, ci aspetta un ultimo film di cui vogliamo parlare, Jumanji, un titolo che rimanda a qualcosa che è molto molto anni 80, e poi tutto il cinema da vedere in casa con gli amici di Fil TV. Restate con noi ancora per un po'. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... Cosa ci attende nel 2018? Nuovi fatti, nuovi personaggi per un anno che si apre. Con GR24 alle 7 e alle 19, dall'1 al 7 gennaio, tutto quel che c'è da sapere per affrontare l'anno che verrà. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni, e continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Come dicevo, c'è ancora un film di cui parlare, un film che è arrivato in sala sempre in questo periodo. Anzi, in realtà arriva il 1 gennaio, quindi... È una piccola anticipazione che facciamo, ma è un film che troverete praticamente subito, e quindi lo vogliamo sentire come appartenenza a questa puntata di fine anno. Si intitola Jumanji, benvenuti nella giungla. Ecco il nuovo gruppo di studenti in punizione. Spencer, Bethany, Fridge, Marta. Sapete di essere tutti qui per un motivo. È arrivato il momento di riflettere su chi siete e su chi volete essere. Fortunatamente... Avrete tanto tempo per capirlo mentre ripulite lo scantinato. Che schifo! Oh, Spencer, che cos'è? Jumanji, un gioco che sa trasportare chi questo mondo vuol lasciare. E allora, Jumanji, un titolo che, come dire, richiama immediatamente un film del 1995 diretto da Joe Johnston e interpretato da Robin Williams. Lo ricorderete, un film che torna con tutto un suo mondo, un suo immaginario, per raccontare appunto una storia che parte proprio da lì. È una sorta di vero e proprio sequel, questo Jumanji, benvenuti nella giungla. Boris, era un titolo che legavamo strettamente alla figura del grande Robin Williams. Cosa rimane di quel titolo? Come si adatta ai tempi nostri? Ma rimane poco, ma è un pregio secondo me, nel senso che nel 95 io avevo 17 anni e inevitabilmente non posso che essere una vestale di quel Jumanji, però se devo pensare come un critico cinematografico non posso che lodare questo sequel, perché prende poco del suo antecedente, del suo originale, diciamo, per viaggiare da qualche altra parte, mantenendone però abbastanza intatto lo spirito. Faccio un esempio: è molto intelligente nel 2017 uscire dal gioco di ruolo, che era il punto di partenza di quel Jumanji, ed entrare nel mondo dei videogame. Ed è anche abbastanza intelligente uscire dai nerd, che erano appunto i protagonisti insieme a Robbie Williams e a una giovanissima Kirsten Dunst di quel Jumanji, e entrare invece all'interno di sfigati, tra virgolette, se si vuole usare questa categoria, che appunto vengono messi in punizione. Perché sia l'uno che l'altro film hanno solo una cosa in comune, cioè il tentativo di capire qual è la propria identità. È un film sull'adolescenza e sul fatto che gli adolescenti, che si credono diversi o che lo sono, devono trovare una propria identità con maggiore difficoltà. Jumanji lo faceva diventare un baraccone straordinario di colori, di azione, di immaginari diversi e paralleli, e di mondi paralleli, che rendeva, insomma, come un moderno Peter Pan, tutto questo più evidente e più affascinante, più divertente, e allo stesso tempo lo rendeva un grande momento di intrattenimento. Ora, faccio fatica a dire che sia all'altezza del precedente, perché comunque un Robin Williams non si sostituisce inevitabilmente, non si sostituisce quel carisma, anche quella capacità di passare dal comico al drammatico. C'è da dire che sorprendentemente però uno come The Rock riesce a in qualche modo a carpirne l'eredità, proprio perché riesce a costruire dentro se stesso una sorta di contrasto. Lui interpreta un ragazzino che si ritrova nel corpo di The Rock, un ragazzino mingherlino, un ragazzino che viene anche preso in giro per questo, che si ritrova all'interno di quel carisma bestiale, così viene definito all'interno del film, che ha The Rock. E The Rock, con la solita autoironia, con la solita capacità di fare commedia, riesce a raccontare questa doppiezza, tra virgolette. Quindi c'è anche, secondo me, l'intelligenza di non voler arrivare alle vette del precedente, ma di mantenere una velocità d'andatura, una velocità di crociera di media alta qualità, e alla fine secondo me ci riesce, e soprattutto per un cinema da feste e delle feste funziona molto bene e può essere veramente proposto a tutta la famiglia, e il 1° gennaio, insomma, è sempre una buona cosa da fare. E allora salutiamoci anche noi, Boris, diamoci appuntamento al 2018 con la nuova prima puntata del nuovo anno della Rosa Purpurea. Anche la prossima sarà una settimana con 6 nuove uscite, di cui una appunto è Jumanji, di cui abbiamo parlato, ma insomma ci sarà parecchio materiale e anche di qualità. Boris, auguri, buon anno, ci risentiamo fra pochi giorni, ma sarà un anno nuovo. Auguri anche a te, auguri a tutti gli ascoltatori, e lo sogno per un anno di dirlo: al prossimo anno e buon cinema. E buon cinema, allora, buon cinema in sala ancora in questi giorni caldi della annata cinematografica. Noi però adesso andiamo avanti con le suggestioni e i consigli per vedere film in casa. Cominciamo tornando indietro di 7 giorni e ascoltando una clip con la quale avevamo giocato una settimana fa. Qualche tempo dopo che nasceste tu e tuo fratello, vostro padre e io divorziammo. Ci prendemmo un figlio per uno. E si trattava di Cattivissimo Me 3, questo l'avevamo detto. Non avevamo detto che i più veloci a vincere, a indovinare e quindi a vincere, sono stati Francesca Maroni di Forlì e Alessandro Boraccina di San Bonifacio, provincia di Verona. Saranno i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Cattivissimo Me 3, del quale parliamo con gli amici di Film TV. Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, ritornano le avventure di questo Cattivissimo Me, un misto tra lo spionistico, il supereroico e il parodico, che fa incetta di cuori di bimbi ed è aiutato da i fantastici e direi anche, come dire, in grande sovrappopolazione nell'immaginario contemporaneo, perché si trova in ogni angolo delle metropoli, i Minions. il Blu-ray che è veramente colmo di contenuti speciali, si va da scene tagliate, i migliori momenti dei Minions che, come dire, dopo aver avuto un film da protagonisti fanno veramente concorrenza al loro amato dietro capo, retroscena e piccoli mini film e tantissimo altro ancora. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana. Andiamo a dare un'occhiata invece ai palinsesti della prossima, cominciando proprio da questa domenica, perché come finire l'anno meglio che con una bella accoppiata di Fantozzi alle 20.45 Fantozzi su Italia 1 e a seguire il secondo tragico Fantozzi? Assolutamente sì, abbiamo i primi due film di Fantozzi macchiati Luciano Salce, che sono quelli sicuramente migliori della saga, quelli che portano in scena una delle più grandi maschere della commedia all'italiana nel suo periodo di, come dire, incupimento tragicomico. Qui appunto sono le tragicomiche vicende del ragioniere più famoso del lato d'Italia, che servono anche per ricordarci che quest'anno è scomparso Paolo Villaggio. Assolutamente un lascito, come dire, che è giusto anche ricordare in questo modo. Domenica 31 dicembre, venerdì 5 invece, un film che abbiamo voluto segnalare perché Cenerentola su Rai 1 alle 21.25 di Kenneth Branagh, che è fuori con Assassino sull'Oriente Express, che sta andando tra l'altro molto molto bene al botteghino e ci racconta molto di questa capacità di Branagh di lavorare sulla favola, e devo dire che forse questo Cenerentola è il migliore live action Disney di questi ultimi anni. Sì, assolutamente sì, Branagh si conferma un regista molto dai film molto eterogenei, ma capace anche di affrontare, come dire, i blockbuster, e qui su un tappeto barocco fatto veramente di dettagli sfarzosi e lustreggianti va in scena proprio la temporalità del classico, della classicità di questa fiaba di Perrault, e il film si, come dire, si contestualizza all'interno di tutta questa rivisitazione delle fiabe che Disney sta facendo, mantenendo, come dire, sempre il grande spettacolo delle sue produzioni, anche quando sono in live action. E quindi Cenerentola su Rai 1 alle 21.25 di venerdì 5 gennaio. Noi con questo salutiamo Giulio San Giorgio, salutiamo gli amici di Film TV, ma chiaramente gli diamo appuntamento anche lui alla prossima settimana. Buon 2018 anche per il settimanale di cinema, l'unico settimanale di cinema di fatto esistente in Italia, che tiene duro e va avanti sempre raccontandoci come sempre il meglio delle cose da vedere sul grande schermo. Grazie ancora a Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, un abbraccio, buon anno a tutti. E allora siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, mi resta solo però il tempo per ricordarvi intanto il film con cui abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di Easy, e il film con Nick Nocella che aveva appunto aperto la stagione cinematografica passando al Festival di Locarno, e settimana prossima vi diremo chi ha indovinato e chi ha vinto. Io vi rimando però alla puntata che va in onda due volte, speciale Rosa Purpurea, i film del 2018, con Piera De Tassis, direttore di Chuck, domani domenica 31 dicembre alle 18, lunedì 1 gennaio alle 16, veramente affronteremo tutto quello che arriverà nelle sale cinematografiche nei primi sei mesi del 2018. Grazie, ancora un grande augurio di buon anno, andate al cinema e noi ci sentiamo la prossima settimana.